Storie italiane. L'albero generoso. Questa è una storia che parla di amicizia e di amore incondizionato verso la natura. In una foresta situata alla periferia della città c'era un albero che si ergeva alto e verde. Aveva rami lunghi e spessi e le sue innumerevoli foglie verdi brillanti, grazie al vento, si muovevano. Gli uccelli venivano da luoghi lontani per poggiarsi sui rami e cinguettare le loro melodie. Era un albero bello e felice. L'albero condivideva un legame molto speciale con un bambino di una città vicina. Il ragazzo, dopo la scuola, correva a far visita al suo amico albero. Assaporava i frutti dall'albero e giocava a nascondino. Parlavano per ore e ore. Il ragazzo condivideva tutto con l'albero: le sue idee, i suoi piani per il futuro, i suoi pensieri e i suoi eventi quotidiani a scuola. L'albero era solito ascoltare attentamente il ragazzo e ridere insieme a lui. Capivano i sogni l'uno dell'altro e il loro legame diventava più forte. Il bambino raccoglieva le foglie per fare una corona e fingeva di essere il re. Si arrampicava sul tronco e dondolava tra i suoi rami. Albero, l'acqua è così pulita e brillante. Sì, è vero. Sei fortunato. Hai una vista magnifica. L'acqua fresca, il sole, la brezza. Non mi meraviglia che tu sia così felice. Potrai vivere qui per sempre. L'acqua, il sole e la brezza saranno sempre qui. Sono felice quando io li condivido con te. Sei il migliore, albero. Ti voglio bene. Anch'io ti voglio bene. Il bambino chiacchierava con l'albero per ore. Dopo aver giocato e parlato, stanco si riposava all'ombra dei suoi rami. Col passare del tempo, il ragazzo crebbe e fece nuove amicizie. Aveva tanti impegni e iniziò a passare meno tempo con l'albero. Non ti dà fastidio quando il sole tramonta? O quando perdi le foglie in inverno? Divento triste, sì. Ma so che il sole tornerà il mattino seguente e le foglie torneranno in primavera. Mi piace aspettare. Hai ragione. Ma sai, anche il sole al tramonto è così bello. Sei fortunato, albero. Tu hai una vista incredibile. Sai, potrei vivere qui per sempre. Non penso sia solo fortuna. Amico mio, il sole è sempre qui. Mi piace di più se ci sei tu. Puoi vivere qui per sempre. So che ti piace. Non è così facile. Tu non hai delle responsabilità. Io devo lavorare e fare carriera. Devo costruire il mio futuro. Io voglio essere felice. Non sei felice adesso? Lo sono, ma io voglio di più. Pian piano, il ragazzo smise di far visita all'albero. L'albero è sempre più solo, in attesa di vedere il ragazzo. Un giorno, il ragazzo tornò a far visita all'albero. L'albero era felice di vederlo. Il suo cuore si allietava ad ogni passo che il ragazzo compiva. Con tanta felicità, l'albero chiamò il ragazzo. Vieni, amico mio. Vieni, arrampicati sul mio tronco e dondolati con i miei rami. Mangia i miei frutti e sii felice. Sono troppo grande per arrampicarmi sul tronco o dondolare sui tuoi rami. Guarda quel tramonto, ragazzo. Ti piace sempre guardarlo? Sono occupato ora. Ho altre cose in mente. Voglio girare e vedere il mondo. Perché sembri triste? Voglio dei soldi, albero. Hai bisogno di soldi per essere felice nel mondo. L'albero non voleva vedere il ragazzo triste. Prendi i miei frutti, caro ragazzo, e vendili al mercato. Così avrai tanti soldi. Mi dispiace. Amico mio, non ho soldi da darti. Ho solo delle foglie e delle mele. Davvero, albero? Posso farlo? Questo ti renderà felice? Sì! Grazie, albero! Sei il migliore! Così il ragazzo si arrampicò sul tronco, raccolse tutti i frutti dall'albero e li portò via per venderli al mercato. L'albero era felice di aver aiutato il suo amico, però il ragazzo non tornò per un lungo periodo. L'albero era triste. Gli anni passarono Arrivavano gli uccelli, cinguettavano le loro canzoni e se ne andavano. Il povero albero aspettava, con i suoi lunghi rami sul bordo della scogliera, in attesa che il ragazzo tornasse. Poi un giorno il ragazzo ritornò. L'albero fremeva dalla gioia. Vieni, ragazzo! Vieni, arrampicati sul mio tronco e dondolati tra i miei rami e sii felice. Non ho tempo per arrampicarmi sugli alberi. Sono troppo occupato. Sono sposato adesso, albero. Io ho una moglie e dei figli. Amico mio, sei davvero cresciuto. Ma perché non mi sembri felice? Dimmi, volevi questo? Sono preoccupato, albero. Sarò felice solo se riesco a costruire una casa per la mia famiglia. Voglio tenerli al caldo e al sicuro. Non ho una casa da darti. La foresta è casa mia. Ma io ho dei rami. Puoi tagliare i miei rami e farne una casa. Allora sarai felice. Grazie, albero. Il ragazzo salì sul tronco dell'albero e tagliò tutti i suoi rami e li portò via. L'albero era felice di aiutare il ragazzo. Ma il ragazzo non tornò per molto tempo. L'albero era triste. Gli anni passarono, ma il ragazzo non venne più a visitare l'albero. L'albero non poteva più parlare con gli uccelli, poiché ora volavano solo in cerchio e andavano via. Non c'erano più i rami lasciati per loro, così da potersi poggiare e cinguettare le loro canzoni. Mentre era pensieroso, l'albero chiedeva sempre agli uccelli notizie del ragazzo, ma nessuno lo aveva visto. L'albero rimase da solo. L'albero era lì, sul bordo della scogliera, cercando di vedere il ragazzo. Vide i mutamenti della città. L'albero vedeva lontani pascoli rasi al suolo per costruire strade ed edifici. Vide gli alberi tagliati e sradicati, torri costruite sul terreno verde. Molte persone arrivavano per tagliare la foresta intorno e costruire case per se stessi. La foresta stava perdendo la sua vegetazione. L'albero era triste nel vedere che la sua terra veniva demolita. Ma cosa poteva fare? Perché era solo un albero. L'albero era molto solo ora, ma aspettava ancora, ardentemente, per il ragazzo. Poi un giorno il ragazzo venne a visitare l'albero. Era diventato un uomo adulto. L'albero era così felice nel vedere il ragazzo che poteva a malapena parlare. Ma il ragazzo sembrava molto triste. Si sedette appoggiandosi all'albero e cominciò a piangere. Il cuore dell'albero si spezzò nel vederlo triste. L'albero non aveva rami per poterlo abbracciare. Non aveva più i suoi frutti per tirarlo su di morale. Non poteva più dargli un riparo come un tempo. Qual è il problema, ragazzo? Perché sei così triste? Mia moglie mi ha lasciato ed i miei figli non si preoccupano più per me. Non voglio vivere in un posto dove nessuno mi ama. Tutto ciò che voglio ora è andare lontano da qui. Non voglio più vivere qui. Hai sempre corso dietro alla felicità, ragazzo mio. Devi fermarti e lasciare che la felicità venga da te. Qui non c'è la felicità. Se solo potessi costruire una barca e navigare sulle acque scintillanti, sdraiato sulla mia barca, immergendomi nel calore del sole. Dimmi, saresti felice? Sì, allora sarò in pace e felice. Ecco, taglia il mio tronco e costruisciti una barca. Così potrai navigare. Davvero, albero? Grazie, sei il migliore. Il ragazzo prese i suoi attrezzi e tagliò il tronco dell'albero e ne costruì una barca. Sembrava felice e sollevato. L'albero era molto felice di aiutarlo. Lo guardava mentre costruiva la barca. In seguito, il ragazzo si allontanò. C'era il sole, la brezza, l'acqua brillante e il ragazzo solcava quelle acque. L'albero non si sentì più fortunato. Era solamente triste nel vedere il ragazzo che si allontanava, proprio come il sole quando giunge al suo tramonto. L'albero era ormai diventato solo un ceppo, posto sul bordo di una scogliera. Passarono gli anni e l'albero divenne sempre più solo. Non riusciva più a vedere gli edifici lontani o le colline. Non poteva più stare in piedi e vedere la sua terra o il popolo. Perché lui era solo un pezzo di legno sul terreno. Gli mancavano gli uccelli, gli mancavano i pascoli lontani, gli mancava il conforto del passato. ma più di ogni altra cosa gli mancava il suo amico. Il ragazzo finalmente tornò all'albero. La città non era più la stessa. Ora c'erano edifici costruiti dall'uomo al posto di madre natura. La foresta era stata abbattuta e i verdi pascoli erano spariti. Quel ragazzo era ormai diventato vecchio. Aveva anche difficoltà a respirare. Era chino e camminava con un bastone. Si stava chiedendo se avesse mai trovato l'albero. La città sta divorando la foresta. Spero di trovare il mio vecchio amico. Ah, speriamo. E così accadde. Si trovava proprio dove l'aveva lasciato. Il ceppo lo attendeva. Sei arrivato. Ti ho aspettato così tanto, amico mio. Sì, albero. È così bello vederti. Mi sono trasferito in un'altra città. Ho vissuto lì per alcuni anni. Stai respirando con difficoltà. Sì, l'inquinamento mi rende difficile respirare. Mi dispiace tanto, amico mio. Non ho più nulla da offrirti. Non ho più i miei frutti. I miei denti sono troppo deboli per mangiare i tuoi frutti. I miei rami sono spariti. Non puoi più dondolarti su di loro. Sono troppo vecchio per dondolare sui rami. Il mio tronco non c'è più. Non puoi più arrampicarti. Oh, sono troppo stanco per arrampicarmi. Mi fa male la schiena. L'albero sospirò. Ah, mi dispiace. Vorrei poterti dare qualcosa, ma non mi è rimasto nulla. Sono solo un vecchio ceppo. La foresta sta scomparendo. Il cemento non può dare aria pulita per respirare. Gli alberi possono. Gli edifici non possono fornire comfort. Quanto può essere avido un uomo? Le città invece inquinano l'aria fresca. Amico mio, le persone non capiscono l'importanza della natura. L'albero non rispose. Non aveva nulla da dire. Ah, sono vecchio e molto stanco, amico mio. Tutto quello che voglio è un po' di aria fresca da respirare e un posto dove sedermi. L'albero si raddrizzò il più possibile. Bene, siediti. Un vecchio ceppo è buono per sedersi e riposare. Vieni, amico mio, siediti. Siediti e riposati. Il vecchio si sedette sul ceppo e fece un respiro profondo. Guardò il sole che tramontava nelle acque scintillanti. Sentì la leggera brezza. Sei fortunato, albero. Hai la vista migliore. Il sole, la brezza e le acque scintillanti. Parlarono a lungo della vita e di come il mondo stesse cambiando intorno a loro. L'amico raccontò la sua storia all'albero e l'albero era felice di questo. La morale di questa storia è che il rapporto della natura con l'uomo è duraturo. Dobbiamo rispettare e preservare la madre terra. Ricorda, gli alberi hanno bisogno dell'uomo come l'uomo ha bisogno di alberi. Preserva anche tu le foreste e aiuta la natura.